Nessun luogo, nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci. Una buona giornata, gentili ascoltatori, ben ritrovati a Nessun Luogo è Lontano. I saluti vi vengono anche da Riccardo Poli, che è in redazione a confezionare con me questo programma, e da Mauro De Angeli, che ha la parte tecnica. Le coordinate per interagire con noi oramai le sapete: 349-238-6666 per gli sms, la mail nessunluogo@radio24.it, e ci trovate su Facebook alla pagina Nessun Luogo è Lontano. A fine novembre si voterà per le presidenziali in Repubblica Democratica del Congo, uno dei paesi più tormentati dell'Africa centrale. E un anno fa gli stupri di massa di Ruvungi, un piccolo villaggio a nord di Goma, ricordavano al mondo intero che esiste un luogo sulla terra che si chiama Kivu. E oggi vi porto proprio lì. È un luogo incredibile, ricchissimo e poverissimo insieme. Un luogo in cui le contraddizioni sono enormi, in cui si estrae coltan, niobium e oro, in cui c'è la più corposa missione ONU al mondo e il più alto numero di bande armate al mondo. Allora, siccome Nessun Luogo è Lontano, io vi porto lì, in Kivu. In Kivu, e in particolare nel villaggio di Ruvungi, nella zona di Walikale, dove un anno fa uno stupro di massa di 200 donne fece riaccendere i riflettori dei media sulla regione e ricordò a tutti che minerali preziosi, multinazionali e bande armate non vanno molto d'accordo. Quella notte dal villaggio di Kembe vengono a dirci che a 500 metri da qui ci sono dei militari che vogliono vedere il capo di Ruvungi. Gli uomini e il capovillaggio partono per Kembe. Intanto le donne dovevano trovare cibo per quei militari che si dicevano portatori di pace. Visto che i nostri mariti non tornavano più, abbiamo pensato che forse avessero mangiato lì a Kembe. E allora ci siamo dette che le razioni che avevamo preparato le avremmo tenute per l'indomani. Arriva la notte, tutti vanno a letto. Verso le 23 ho sentito dei rumori e ho cercato di uscire in fretta al buio. I bambini dormivano nel giaciglio. Si sono messi a piangere, così qualcuno da fuori ha sentito e ha sfondato la porta, che è caduta su un bimbo che è rimasto ferito gravemente alla testa. Poi mi hanno presa e mi hanno violentata. Sono stati in due. E poi hanno rubato i pesci salati che tenevo in casa. La voce che avete ascoltato è quella di Bijou, una delle donne, una delle 200 donne di Walikale, di Ruvungi, che ci ha raccontato che cosa è accaduto la notte del 31 luglio dell'anno scorso. Una testimonianza drammatica, una testimonianza che getta luce su una violenza che permea quella regione. I colpevoli, secondo le testimonianze raccolte non solo dall'ONU ma anche da noi stessi in prima persona, i colpevoli sarebbero gli FDLR e i Mai Mai Cheka. Gli FDLR, cioè le Forze Democratiche per la Liberazione del Ruanda, cioè uno dei gruppi armati più potenti della regione, sono degli Hutu ruandesi scappati dopo i tragici fatti del 94. E poi i Mai Mai Cheka. I Mai Mai in Congo sono delle milizie, chiamiamole partigiane, sono le milizie che storicamente difendono i villaggi, e ce ne sono parecchie. Un recente studio europeo ne conterebbe quasi una ventina. Dobbiamo usare il condizionale, perché i colpevoli, secondo le testimonianze, sarebbero FDLR e Mai Mai Cheka. Perché dobbiamo usare questo condizionale? Giro la domanda immediatamente a Ugo Borga, fotogiornalista. Ugo, buongiorno. Ciao Giampaolo. Perché allora usiamo il condizionale, Ugo? Beh, bisogna usare il condizionale perché in realtà le milizie che operano nel Kivu utilizzano tutte le stesse divise, utilizzano tutte le stesse armi e parlano tutte Swahili o Kinyarwanda. In realtà è molto difficile, sempre molto difficile, attribuire la responsabilità di un'azione in questi casi. Uno stupro di massa in una zona mineraria, ci chiediamo perché. Gli esiti degli stupri poi sono quella che viene denominata la guerra del terrore, terrorizzare la popolazione, commettere degli atti così insensati da disumanizzare chi ne è colpito e creare appunto il terrore. Ascoltate all'ospedale di Jesom di Goma, la capitale del Nord Kivu, che cosa ci dicono i medici e gli assistenti sociali che ricevono le vittime degli stupri. Quando le donne arrivano qui, innanzitutto sono in collera. Alcune si vergognano di raccontare la loro storia. Ci sono quelle che piangono e quelle che si isolano. E chi si isola aussi. On la met d'abord au lit, qu'elle se repose un peu, parce que comme a déjà fin de dire. Le mettiamo a letto e le facciamo riposare, perché non vogliono parlare. Sono traumatizzate. A volte bisogna aspettare 3 giorni affinché raccontino che cosa è accaduto loro. Vous raconterez ce qu'elle a trouvé comme embuscade. Les conséquences physiques des femmes victimes de violences sexuelles que nous recevons ici. Ci sono problemi di infezioni, di tagli del perineo. Alcune hanno fistole all'apparato urinario. E oltre a questo, altre presentano il prolasso dell'utero dopo la violenza. E a parte queste fistole urinarie, ci sono altre donne che hanno dei problemi di prolassi. La logica del terrore così consente alle bande armate di muoversi liberamente in un territorio molto vasto e molto difficile da controllare. Dicevamo, le bande armate, secondo alcune fonti, sono poco meno di una ventina. I Mai Mai Ceca, i Mai Mai Pareco, gli FDLR, il SNDP, il Consiglio Nazionale di Difesa del Popolo, il vecchio movimento ribelle Tutsi che nel 2008 fece tremare Kabila e Kinshasa, che adesso è stato reintegrato, pensate un po', nell'esercito regolare congolese. Insomma, siamo di fronte a una giungla non solo fisica, ma anche una giungla fatta di sigle e di milizie. E c'è un esercito governativo congolese, le FARDC, che non controlla, perché Kinshasa è lontana e il presidente Kabila è piuttosto debole qui. Che esercito è quello congolese? Giro immediatamente la domanda a Donatella Rostagno, analista politica di EURAC, Network Europeo per l'Africa Centrale. Donatella, buongiorno. Buongiorno Giampaolo. Buongiorno. Allora, che tipo di esercito è quello congolese? Quanto è in grado di garantire stabilità e sicurezza nella regione del Kivu? Ma l'esercito congolese è un esercito che si è formato con ondate successive di integrazione, come dicevi anche tu, di vari gruppi ribelli. Gli ultimi in termini di tempo sono appunto i CNDP di cui parlavi, e quindi il problema è che questi gruppi ribelli che lasciano ufficialmente la ribellione e vengono integrati nell'esercito non hanno nessun tipo di formazione ed inquadramento, quindi diciamo che sono persone che dal giorno prima, il giorno prima erano ribelli, il giorno dopo diventano membri dell'esercito senza sapere esattamente cosa questo voglia dire. Questo crea degli enormi problemi chiaramente, innanzitutto perché non c'è nessuna volontà politica da parte del governo congolese di formare veramente il governo. C'è anche una realtà che è quella che i capi dei gruppi ribelli che sono integrati nell'esercito in realtà non hanno nessuna intenzione di smantellare i loro effettivi militari, perché pensano di averne bisogno nel momento in cui il processo di pace dovesse fallire. Ecco, fra l'altro, Donatella, un caso eclatante è, abbiamo parlato del SNDP di Laurent Kunda, è uno dei suoi luogotenenti che era soprannominato Terminator, il quale insomma ha una sua milizia Tutsi con cui si muove nelle strade di Goma sui suoi pick up, ed è uno che insomma si tiene ben stretto e ben vicino ai suoi uomini, perché come giustamente dicevi tu non si sa mai, soprattutto in vista delle elezioni di novembre, che cosa poi potrebbe accadere. Quindi un'estrema frammentazione all'interno di questo esercito, spesso direi anche un senso di nazionalità che, come dire, non è che pervada i cuori dei congolesi, e quindi tutto questo contribuisce, come dire, a una situazione di grande instabilità. Ugo Borga, che ha vissuto il Congo, ci siamo incrociati io e te, Ugo, la prima volta nel 2008, poi siamo andati insieme nel novembre dell'anno scorso, e tu che, come dire, hai toccato con mano queste FARDC, questo esercito congolese, che impressione ne hai, che sensazione ne hai? L'esercito congolese è di fatto un'armata brancaleone, no? Nel senso che, come diceva Donatella, è composto da milizie che vengono integrate man mano, e pensate che non si conosce a tutt'oggi il numero dei componenti di questo esercito, per cui è facile immaginare che cosa significhi, insomma, una milizia anche relativamente indisciplinata che circola in queste regioni, che sono tra l'altro molto difficili da raggiungere perché ci sono strade interrotte, perché insomma le condizioni sono davvero difficili. Io fra l'altro ricordo che molti gruppi armati sono accusati da inchieste dell'ONU di stupri e di attacchi ai villaggi, ma delle stesse accuse le FARDC dovrà rendere conto, perché anche i militari governativi congolesi sono spesso al centro di inchieste appunto per saccheggi. Allora questo esercito, queste bande di miliziani sfruttano illegalmente un territorio minerario. È una situazione, quella dell'insicurezza persistente della regione del Kivu, che fa comodo un po' a tutti. Allora ascoltate insieme a me Irut Geber Selassie, capo della missione ONU in Congo, la MONUSCO. Gli attacchi di luglio a Valikale hanno evidentemente preso come obiettivo i più vulnerabili, cioè le donne. Normalmente non sono armate, restano a casa e quindi sono vulnerabili. In questo contesto, la maggior parte degli uomini dei villaggi toccati dagli attacchi vanno in miniera a lavorare e quindi non c'erano molti uomini nei villaggi al momento degli assalti. Questi attacchi avvengono spesso dopo che un'operazione è stata condotta dalle FARDC. Evidentemente le FDLR ritornano se FARDC non tiene il villaggio da cui li ha cacciati, tornano per vendicarsi e le donne sono attaccate perché sono loro che vengono sorprese in casa. Le donne sono le più vulnerabili a questi attacchi. Normalmente non sono armate. Ci sono altri momenti in cui si può pensare che questi gruppi armati abbiano interesse a perpetuare una certa insicurezza, perché ci sono degli interessi, ci sono delle risorse minerarie sfruttate in modo illegale e quindi l'insicurezza persistente è a loro beneficio. Insicurezza persistente fatta di attacchi e contrattacchi nei piccoli villaggi di cui parlava Ugo Borga, e li abbiamo visti insieme, i plotoni di FARDC, dei governativi, muoversi da un villaggio all'altro. E la sensazione che se ne trae, insomma, che dopo 3 giorni di marcia, magari nella giungla, sulle strade sterrate, con quei $30 al mese di stipendio, quando te li danno, e con poco cibo e poca acqua, insomma, un villaggio a quel punto diventa appetibile un po' per tutti. E le elezioni in Congo si avvicinano. Jean-Pierre Bemba si è ricandidato dalla sua cella all'Aia, dove sta scontando una condanna per crimini di guerra. Il suo partito, il Movimento per la Liberazione del Congo, resta il principale partito d'opposizione. Donatella Rostagno, che cosa accadrà secondo te in queste elezioni che immagino seguirai da vicino? Kabila si trova di fronte a sfide enormi, prima fra tutte quella della sicurezza nel Kivu. Certo, assolutamente. Il problema è che in questo momento, per quanto riguarda il processo elettorale, l'insicurezza nel Kivu non sembra essere il problema maggiore né del governo congolese né in realtà della comunità internazionale, che sempre di più parla del Congo come un paese post-conflitto. E questo è uno degli aspetti che ci preoccupa chiaramente molto. Quello che succede è che, come sapete, il presidente Kabila ha cambiato la Costituzione recentemente, nel gennaio di quest'anno, per poter affrontare delle elezioni a un turno e quindi avere più sicurezza di essere eletto. La nostra apprensione in questo momento è di vedere come si organizzano i partiti dell'opposizione, perché crediamo che potrebbero avere una possibilità solo nel momento in cui decidessero di coalizzarsi, e questo non sembra al momento essere ancora una realtà. Nessun luogo è lontano. E così ancora una volta il Kivu, questa regione dell'est del Congo al confine con il Ruanda, sembra svanire dall'agenda politica non solo della comunità internazionale ma anche del presidente congolese Kabila, che si sottoporrà il prossimo novembre al giudizio degli elettori. Perché ci sono tanti nodi risolti in Kivu, perché è difficile risolvere una situazione in cui la violenza è all'ordine del giorno, in cui gli attacchi ai villaggi si moltiplicano, in cui gli stupri, le violenze sulle donne ormai non si contano più. In questa situazione la più potente formazione militare della zona, i cattivi, quelli a cui tutti addossano ogni colpa, sono loro, gli FDLR, il Fronte Democratico per la Liberazione del Ruanda. Ma chi sono gli FDLR? Lo abbiamo chiesto al loro portavoce quando alcuni mesi fa io e Ugo Borga li abbiamo raggiunti nel villaggio di Maniema. In poche parole, FDLR è un movimento politico-militare creato nel 2000 in seguito a una situazione creata e ancora esistente che vuole che un intero popolo di rifugiati ruandesi in esilio sia sterminato. C'era una volontà manifesta del governo ruandese di sterminare questi rifugiati. Ci sono dei rifugiati che sono stati costretti a rientrare in Ruanda per forza, dopo molti morti. Altri hanno preferito disperdersi nelle foreste dello Zaire. Quell'armata non si è accontentata di distruggere i campi, ma è andata alla caccia dei rifugiati. Questa situazione è continuata. Allora gli FDLR sono i giovani di questo popolo che hanno deciso di prendere le armi per legittima difesa. Gli FDLR hanno un altro obiettivo: di battersi per la libertà e giustizia in Ruanda. Voi sapete che il regime di Kigali è un regime basato sulla menzogna e l'ingiustizia. Noi vogliamo assolutamente che la situazione cambi. Cerchiamo una giustizia per tutti. Noi cerchiamo la democrazia. Nous cherchons la démocratie. Questa è la carta d'identità degli FDLR, secondo la voce del suo portavoce Monsieur Laforge Fils Baseye, incontrato appunto da me e da Ugo Borga nel novembre dell'anno scorso. Gli FDLR, dunque, fra di loro vi sono sicuramente alcuni elementi degli Interahamwe, che era la milizia Hutu genocidaria, quella responsabile dei tragici fatti nel 94. Ma nei villaggi controllati dagli FDLR vi sono anche civili, vi sono donne e bambini e vi sono sicuramente le persone che nulla hanno a che fare con la tragedia del 94. Eppure verso gli FDLR è in corso una caccia che dura oramai da anni su più livelli. Però direi, facciamo un attimo il punto, ripercorriamo quei tragici fatti del 94. Il genocidio del Ruanda fu uno dei più sanguinosi episodi della storia del XX secolo. Dal 6 aprile alla metà di luglio del 1994, per circa 100 giorni, vennero massacrati sistematicamente a colpi di armi da fuoco, macete e bastoni chiodati tra 800.000 e 1 milione di Tutsi e Hutu moderati. Hutu e Tutsi hanno convissuto relativamente in pace per secoli. In Ruanda, come in Burundi, i Tutsi rappresentavano l'aristocrazia della società e possedevano la terra e il bestiame, mentre gli Hutu svolgevano il lavoro agricolo. Fu l'amministrazione coloniale ad alimentare l'odio interetnico. Con la fine del governo coloniale, la tensione tra Hutu e Tutsi in Ruanda esplose in una spirale di violenza, che in 30 anni provocò la morte di circa 500.000 persone. Nel 1959, la rivolta degli Hutu contro la monarchia Tutsi condusse al referendum del 1961 e all'indipendenza del 1962, accompagnata dallo sterminio di oltre 100.000 Tutsi e dalla loro emigrazione in Uganda e Burundi. Nel 1973, in Ruanda, il generale Habyarimana procedette al colpo di Stato ed instaurò un regime autoritario nel 1975. Nel 1990 il Fronte Patriottico Ruandese, gruppo politico-militare nato nella comunità Tutsi rifugiatasi in Uganda, tentò il colpo di Stato in Ruanda ed alimentò una guerra civile. La situazione, in costante tensione tra i due gruppi etnici, esplose definitivamente nel 1994 quando, il 6 aprile, l'aereo presidenziale dell'allora presidente Habyarimana fu abbattuto da un missile terra-aria. In Ruanda si consumò allora una delle carneficine più sistematiche nella storia dell'umanità. Quasi 1 milione di Tutsi vennero massacrati dagli Hutu a colpi di macete, il 20% della popolazione ruandese sterminato in soli 100 giorni di follia collettiva. In fuga davanti all'avanzata delle truppe Tutsi guidate da Paul Kagame, attuale presidente ruandese, numerosi miliziani Hutu, noti come Interahamwe, hanno trovato rifugio nel vicino Congo, nella regione del Kivu, subito dopo la fine dei massacri, dove non hanno mai veramente deposto le armi, nonostante le operazioni militari lanciate contro di loro da Kinshasa, di cui l'ultima lo scorso gennaio. E quindi operazioni militari contro gli FDLR, nel cui seno vi sono anche elementi, lo ripetiamo, di Interahamwe sicuramente, ma non sono tutti FDLR, che il cui portavoce dice: noi nasciamo per difendere i campi profughi Hutu che si sono stabiliti in Congo dopo appunto quei tragici fatti. Allora la caccia verso FDLR si muove su due livelli: uno a livello giuridico internazionale con gli arresti di leader in Belgio e in Germania, una sul terreno con vaste operazioni condotte in maniera non sempre limpida e fino a qualche tempo fa anche con l'appoggio della missione MONUSCO dei caschi blu dell'ONU, che davano supporto logistico alle forze governative congolesi contro quelle che nel gergo dei comandanti indiani dell'ONU vengono chiamate le forze negative. Però Ugo, noi abbiamo visto sulla linea del fronte verso Maniema, in questo sperduto villaggio del nord, strani figuri, questi colonnelli Tutsi, evidentemente Tutsi, che insomma guidavano operazioni d'assalto, strane figure, non si capiva bene se erano incognito o non erano incognito. Che cosa ci puoi dire? Come ti ricordi, è una situazione davvero difficile da decifrare, nel senso che sì, certamente c'erano questi comandanti, sicuramente erano dei tuzzi, è difficile capire a quale formazione appartenessero. Erano ruandesi, appartenevano all'esercito ruandese, erano invece elementi del SNDP, non è chiaro. Certo è chiaro che il loro scopo era proprio quello di dare la caccia, di procedere insomma allo sterminio, come sostiene la Forge, dei rifugiati Hutu ruandesi. Perché in qualche modo quello che ogni tanto è uscito insomma in questo nostro mese in Kiev è come se vi fosse un conto aperto tra alcuni elementi tutsi e alcuni elementi Hutu, che insomma questa strana battaglia combattuta, guerra anzi combattuta anche con mezzi non sempre chiari, insomma sta continuando, sta andando avanti. Grazie Ugo Borga per il tuo contributo, una buona giornata e un buon lavoro. Grazie a te, a presto. Insomma, raccontare il Kiev, come state ascoltando, è difficilissimo perché sono mille i chiaroscuri, le pieghe, le ombre dove si nascondono verità a prima vista incontrovertibili, poi va lì e scopre insomma che non tutto il male è il male assoluto e i buoni non sempre sono buoni, i cattivi non sempre sono cattivi. Messie Laforge, l'abbiamo sentito a lungo durante questa intervista realizzata a Maniema, insomma lui dice si deve stabilire un punto fondamentale della recente storia della zona. Allora lo ascoltiamo insieme. Nel 94 ci sono stati dei giganteschi massacri. Qual è stato l'elemento scatenante di quei massacri? È stato l'attentato contro l'aereo del presidente Abiarimana. Non si vuole sapere chi ha abbattuto quell'aereo. È la verità di base che deve essere resa nota. Chi ha abbattuto l'aereo? In seguito ci sono stati dei tuzzi che sono stati uccisi ed è stato istituito un tribunale penale internazionale per questo. Ma ci sono dei rifugiati Hutu che sono stati selvaggiamente assassinati in Zaire, ma anche in Ruanda. Ci sono delle responsabilità che devono essere definite. E poi ci sarà la riconciliazione. Oppure vogliamo dire che chi è al potere a Kigali sono agnelli e gli oppositori in esilio sono dei lupi. Lupi agnelli, chi attacca chi, è difficile in Kiev stabilire le responsabilità, lo sentivate dalla voce di Ugo Borga a inizio di questa puntata, i gruppi ribelli, i gruppi armati portano tutti la stessa divisa, portano tutti la stessa arma e parlano le stesse due lingue, chi ne è Ruanda o Swahili, per cui è molto difficile distinguerli tra loro. E poi a livello politico internazionale, lo scorso anno è uscito un rapporto dell'ONU che denuncia un controgenocidio tra il 96 e il 97 sui rifugiati Hutu in Congo, ed è quello a cui faceva riferimento Messie Laforge. Insomma, secondo lui è un primo passo per ristabilire la verità. Almeno si vede che c'è una volontà di scoprire l'altra faccia della verità. Se no, dopo 16 anni, la comunità internazionale e l'ONU non hanno fondato le loro azioni che sulle menzogne del governo di Kigali. Si vede che è un passo nella buona direzione, ma ce ne vogliono altri. Il Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda è stato creato. Tra gli obiettivi di questo tribunale si dovevano giudicare le due parti belligeranti nel conflitto, che è cominciato nel 90. Constatato che il tribunale chiude le porte e va ad occuparsi di una parte solamente, è un'ingiustizia internazionale dei vincitori sui vinti. Noi chiediamo che la comunità internazionale vada oltre e che ricerchi una giustizia equa per tutti. È la base della riconciliazione del Ruanda. Insomma, questa simpatia in senso etimologico internazionale nei confronti della causa Tutsi ha in qualche modo fatto male alla causa Hutu, soprattutto di quei rifugiati di cui parlava la Forge. Ma gli FDLR sono accusati di stupri, di saccheggi ai villaggi. Allora noi, quando siamo andati a novembre a Maniema e li abbiamo incontrati, dopo che avevamo raccolto le testimonianze che avete sentito delle donne stuprate, gli abbiamo chiesto: siete voi i responsabili degli stupri e degli attacchi ai villaggi? È la nuova diabolica strategia del regime di Kigali e del suo esercito. In effetti attaccano i civili. E poi la colpa è attribuita agli FDLR. Abbiamo denunciato tutto questo da tempo, ogni volta che accadeva con comunicati stampa. La prova? Noi viviamo qui, in questo villaggio, con una popolazione che è essenzialmente congolese, tranne qualche rifugiato. Perché allora non li attacchiamo? Chiedete pure ai congolesi. Ma ciò che è sconvolgente è che la maggior parte degli attacchi si producono vicino a postazioni militari dei FARDC. Come lo spiegate? E dove ci sono predominanza di elementi del CNDP? Come lo spiegate? E così, mentre eravamo in Kiev, abbiamo cercato di mettere insieme un po' di fattori, prendendo notizie soprattutto sui Mai Mai Ceka, che erano gli altri attori accusati di questi stupri di massa. Ceka era un uomo d'affari congolese che fino a 2 anni fa estraeva minerali nella zona di Walikale, proprio la zona in cui si è verificato lo stupro di massa. Siamo a nord di Goma, è una zona collinare, lussureggiante, ricca di minerali appunto. A un certo punto, due multinazionali, una sudafricana e una belga, estromettono Ceka dagli affari. Ceka cosa fa? Mette su una milizia, la chiama una milizia Mai Mai, e inizia una serie di attentati, fino a attaccare i villaggi e fino a questo presunto stupro di massa. Dopo l'attacco di Ruvungi del luglio-agosto dell'anno scorso, ci fu una trattativa segreta fra i Mai Mai Ceka e Kabila, l'esercito congolese, per un'integrazione dei Mai Mai Ceka nell'esercito governativo congolese, per poi essere messi di stanza proprio nelle zone minerarie per cui combattevano. Cioè la logica del terrore è stata usata per mostrare i muscoli, sedersi al tavolo delle trattative e contrattare in qualche modo un pezzo di terra, un pezzo di miniera, poi da poter sfruttare come avevano sempre fatto. Nessun luogo è lontano. L'incredibile storia di Messie Ceka, la storia che si è confermata, insomma, confermerebbe appunto l'utilizzo dello stupro di massa come arma di guerra, ancora una volta anche qui nelle foreste congolesi. Io voglio sedermi al tavolo delle trattative col presidente Kabila, che cosa faccio? Faccio una cosa incredibile, faccio un'azione militare eclatante, faccio accendere i riflettori dei media internazionali su uno stupro di 200 donne e dico, bene, e adesso si tratta. Poi la trattativa in realtà pare che sia sfumata, ma insomma i meandri della politica congolese sono veramente di difficilissima lettura. Donatella Rostagno, prima di lasciarti al tuo lavoro, chiuderei in qualche modo, se possibile, con una nota di speranza, non lo so. Donatella è analista politica dell'EURAC, Network Europeo per l'Africa Centrale. Come uscirà il Kivu da questa situazione che sembra senza via d'uscita, in cui le violenze sono continue, in cui non c'è un controllo delle risorse minerarie, non c'è un controllo dell'esercito? Come se ne esce? Beh, se ne esce con una volontà politica sia da parte dei governi della regione, quindi non solo il governo congolese ma anche chiaramente ruandese, ugandese, burundese, con una volontà della comunità internazionale di mettere in piedi delle politiche che vadano veramente verso la soluzione di questo conflitto. La soluzione del conflitto vuol dire un cambiamento della situazione, quindi passare da questa situazione di instabilità della quale approfittano praticamente tutti, e abbiamo parlato anche delle multinazionali e aggiungerei anche famiglie di alcuni paesi europei che hanno degli interessi economici in questa zona. Queste sono le soluzioni per le quali noi ci battiamo, ci vuole una volontà politica di arrivarci, insomma. E vedremo se le elezioni di fine novembre, cui Kabila è chiamato insomma alla eventuale riconferma, saranno un primo passo per la soluzione politica nel Nord Kivu. Grazie Donatella Rostagno per essere stata con noi. Buona grazie giornata e buon lavoro. E in questo Kivu in cui si combatte quotidianamente, in cui vi sono tanti chiaroscuri, in cui i buoni si confondono con i cattivi, in cui la stessa divisa, la stessa arma, la stessa lingua non consentono mai di capire chi ha attaccato chi è il colpevole, chi è la vittima e chi è il carnefice, sicuramente c'è un motivo unificante. Il protagonista si chiama AK-47, il fucile Kalashnikov. Luca Giurdan, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, Luca Giurdan, docente di antropologia all'Università di Bologna, ha scritto un testo molto interessante che si chiama Generazione Kalashnikov e spiega come avere così tante armi in un territorio come il Kivu non solo alimenti la violenza, ma cambi radicalmente la società quasi nel suo DNA. Sì, è un po' la tesi centrale di questo mio libro. Quello che volevo dire è che in sostanza in Congo la presenza di armi, di Kalashnikov in particolare, è diventata un problema ma allo stesso tempo anche un'opportunità. Con questo intendo che chi imbraccia un Kalashnikov innanzitutto mangia, no? Mi ricordo benissimo uno dei miliziani che intervista e mi disse: ah, quando il mio comandante mi ha ruolato, mi disse: tento un Kalashnikov e gagno ta vi. Tieni questo Kalashnikov e guadagnati da vivere. Cioè, il che significa semplicemente saccheggia, ruba, siccome i miliziani non sono pagati, insomma, è diventato il tuo mezzo di sussistenza. Sì. Fra l'altro questa cosa, scusami Luca, ti interrompo, intanto l'ha detto come si darebbe una zappa a un giovane contadino, no? Cioè prendi questa zappa, coltiva il campo e cerca di mangiare. Il fatto che i miliziani appunto non vengono pagati credo che sia uno dei punti fondamentali. Questo accade non solo per le bande armate di cui abbiamo parlato, ma anche per i governativi, perché molto spesso i colonnelli che comandano i vari plotoni, le varie brigate, intascano la maggior parte degli stipendi e poi insomma li destinano un po' come pare a loro, ai vari soldati. Per cui, come dicevi tu, avere un Kalashnikov in mano significa non solo poter mangiare, ma anche fare un po' il bello e il cattivo tempo. Esattamente. E poi chiaramente, poi la Rostagno ne parla meglio di me, ma riformare l'esercito congolese è il primo passo, perché se tu non paghi i tuoi soldati, questi vivono saccheggiando. Ma io mi ricordo ad esempio la prima volta che andai in Congo, era nella regione controllata da Jean-Pierre Bemba, il quale adesso ha gli arresti, accusato di crimini contro l'umanità. In ogni caso la sua armata funzionava così, che quando conquistavano un villaggio la truppa aveva 3 giorni di tempo per saccheggiare, insomma di anarchia, per fare quello che voleva, per ripagarsi diciamo di questo sforzo bellico. Quindi è chiaro che in questo contesto un primo passo, e questo lo fa anche l'esercito governativo, ahimè, e quindi in questo contesto un primo passo è quello di creare un esercito serio, solido, che non faccia più queste cose. È tema questo piuttosto delicato, perché un esercito in cui si entra chiedendo a un colonnello compiacente di imbracciare un Kalashnikov e magari pagando, quando un Kalashnikov si compra con 30-50 dollari, quando io non ho più voglia di combattere, metto in una valigia il mio Kalashnikov, la mia divisa e me ne vado, insomma si capisce che questo esercito congolese, questa armata Brancaleone come la definiva Ugo Borga, è veramente da rifondare fin dall'inizio. Perché l'utilizzo di una violenza così efferata, così feroce, che cosa permette uno stupro appunto di massa di 3 giorni, che cosa permette un pillage, un saccheggio di un villaggio, no, per 3 giorni, che cosa, che valore aggiunto dà ai miliziani che combattono questa guerra? Beh, lì due cose. Innanzitutto il terrore diventa un'arma da guerra, no? È evidente che qui stiamo parlando di guerre combattute con armi leggere, che come sappiamo però leggere non significa che facciano meno danni, anzi, spesso e volentieri sono guerre più violente ancora. Quindi in qualche modo l'eccesso di violenza, quello che noi definiamo un terrore, no? Questi stupri di massa, ma anche torture, eccetera, eccetera, compensano un gap tecnologico, nel senso che io attraverso questo, ricorrendo al terrore, ho un effetto devastante sulla popolazione, sono capace a spaventarla, eccetera, quindi in qualche modo mi impongo attraverso il ricorso al terrore. Certamente che poi lo stupro, la donna, eccetera, colpire così in modo ossessivo la donna significa anche colpire il cuore della società. La donna è il riproduttore della società, quindi colpire la donna significa distruggere la società nel suo cuore, quindi è un atto in qualche modo quanto mai devastante. E poi è destrutturante, nel senso che quando il terrore, come voi avete magari avete avuto modo di constatare in Kiev, si diffonde così tanto, la gente è disaffezionata ai luoghi, la gente scappa, no? Tutto perde un po' di senso, quindi posso creare il vuoto per sfruttare le mie miniere, eccetera, eccetera, perché la gente non ha mezzi per difendersi di fronte al terrore, non può fare altro che fuggire, andare nei soliti campi profughi, soliti tra virgolette, ma insomma sappiamo che lì insomma brulicano i campi profughi, eccetera. C'è una, si crea, come dire, una disaffezione a tutto, ai luoghi, eccetera, e questo è l'effetto appunto di questa violenza così devastante. In questo incredibile vuoto, in realtà colmo di violenza, c'è una componente esoterica che va appunto a riempire in maniera incredibilmente attuale, pur attingendo a fonti storiche, a cose, a ritualità e a magie che noi credevamo scomparse. Nel tuo libro racconti degli incontri con alcuni mai mai, ne ho parlato prima, sono queste milizie partigiane, anzi bisognerebbe dire, secondo la pronuncia swahili, magi magi, che vuol dire acqua. Luca, com'è possibile che nel 2011 un guerriero, l'ultimo che abbiamo incontrato, Yogo, era tutto agghindato con questi grigri fatti di fogliame sul volto, aveva braccialetti, aveva corone, e lui, cospargendosi di magi, di acqua, diventa invulnerabile ai proiettili? Com'è possibile che nel 2011 sopravviva una cosa simile? Sì, è innanzitutto perché noi la vediamo con i nostri occhi e ci pare assolutamente strano, però dobbiamo anche pensare che sono milioni di persone che vanno a Lourdes pensando di guarire da una malattia, e questo è esotico allo stesso tempo. Quindi questo tipo di credenze in realtà fanno parte di dei rituali. I rituali hanno una, diciamo, una loro dimensione del potere. Con questo voglio dire, la credenza lì di fondo è che l'acqua, no? la magia, lavorata secondo delle procedure segrete, esoteriche per l'appunto, possa proteggere i guerrieri dai proiettili. Questo rituale, e anche controllare questo rituale significa manipolare chiaramente, perché un bambino, un giovane che crede, no? a questo... alla potere dell'acqua, chiaramente è una persona estremamente manipolabile. In una situazione, ripeto, sono cose che esistono anche da noi, solo che da noi ci paiono normali, quindi non le vediamo così come strane. Però appunto la ritualità è una situazione in cui non c'è più un'istituzione in grado di esercitare un potere, non c'è un esercito, eccetera. Io ho bisogno di arruolare dei giovani, ricorro a questi riti che appunto sono anche dei riti che mi permettono di manipolarli, eccetera. E chiaramente localmente questi riti hanno senso, perché la ritualità dell'acqua, eccetera, è diffusa storicamente nella regione, la troviamo già nella ribellione dei Magi Magi in Tanzania, certo, contro i tedeschi all'inizio secolo. Quindi tutto questo ha senso, e in un periodo di guerra questi rituali in qualche modo vengono riattivati dai capi miliziani, eccetera. E l'acqua alla fine, Luca, si dimostra a volte veramente in questo senso più potente delle pallottole. Grazie Luca Giurdan per essere stato con noi, docente di antropologia all'Università di Bologna. WhatsApp. Notizie dall'altro lato del mondo. E quindi vedremo se sarà la politica a salvare il Congo, ma noi intanto diamo un'occhiata alle altre notizie. Andiamo in Libia. I fronti fondamentalmente sono tre, continua la battaglia tra Brega e Ras Lanuf, che sono i due centri petroliferi, e continua l'accerchiamento da parte dei ribelli che avanzano verso Tripoli e avanzano verso Zawiya, e quindi una volta presa Zawiya, insomma, la strada verso Tripoli sarà praticamente sgombra. Allora Gheddafi cosa fa? In tutta risposta lancia un missile Scud che però si crede centrare Brega, ma finisce a circa 80 km. Però intanto la diplomazia del Consiglio Nazionale Transitorio si muove, e sono a Parigi. Mansour Saif al-Nahr, parlando ai microfoni di Radio France Internationale, ha detto: il conflitto libico è entrato in una fase decisiva, speriamo in una vittoria per la fine del Ramadan. E poi Medio Oriente, a Gaza. Un palestinese è morto e altri due sono rimasti feriti in un bombardamento israeliano appunto sulla striscia di Gaza. Tra le 4 e le 5 del mattino, ha riferito un portavoce dell'esercito israeliano, abbiamo attaccato la striscia. Qualche ora prima, sempre dalla striscia, era stato sparato un razzo che aveva raggiunto un terreno deserto nell'area israeliana di Beersheba, e non vi erano stati né danni né vittime. E infine in India, Nuova Delhi, dove si è raggiunto a quota 1400 dei dimostranti arrestati, sono stati arrestati oggi a Nuova Delhi dalla polizia insieme al pacifista gandhiano Anna Hazare, bloccato poche ore prima che iniziasse uno sciopero della fame contro la corruzione. Il governo non è contro le proteste pacifiche, ma ci sono delle condizioni da rispettare per mantenere l'ordine e la sicurezza nella capitale, ha detto il ministro della giustizia, giustificando in questo modo questo intervento preventivo della polizia. Il ministro Chidambaram ha poi aggiunto di non sapere dove è stato trasferito Azare, che si trova in una località segreta. Non mi resta che ringraziarvi per essere stati con noi. Un grazie a Riccardo Poli, che ha confezionato con me questo programma. Un grazie a Mauro De Angi, che gli ha dato musica e ritmo. Noi ci risentiamo domani puntuale ore 13:15.